Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, bentornati a Montecitorio e dintorni. Lunedì prossimo si aprirà il nuovo Parlamento. Una delle matricole, non nuova alla politica, ma nuova a Montecitorio, è Davide Zoggia del Partito Democratico. Insieme arriveranno anche i grillini. Intanto, come la devo chiamare? Onorevole, deputato? Ma mi chiami Davide Zoggia, mi pare che vada bene. Senta, lei però sui grillini, su Grillo è stato un po' duro, ieri ha detto che deve chiarire sui paradisi fiscali, c'è questa inchiesta dell'Espresso riguardo a queste società offshore in Costa Rica. Ma no, noi abbiamo chiesto come Partito Democratico che, visto che c'è questa inchiesta da parte dell'Espresso, ci sia un chiarimento da parte di Grillo, insomma spieghi se queste cose che vengono dette sono vere o non sono vere, eventualmente quali sono le motivazioni, insomma, quindi è una, credo, assoluta e giusta domanda rispetto anche a tante accuse che per esempio sono state fatte da Grillo anche alla nostra forza politica, assolutamente, diciamo, non giuste, non corrette, però, ripeto, è una richiesta di chiarimento che penso doverosa per una forza politica che ha una così forte rappresentanza in Parlamento. Lei pensa al Monte dei Paschi, quando vi accusava appunto di essere dentro lo scandalo Monte dei Paschi? Ma io ritengo che non si debba fare ovviamente nessun tipo di tra virgolette vendetta politica. Credo che l'atteggiamento che Grillo ha tenuto nei nostri confronti rispetto alla vicenda del Monte dei Paschi sia stato un atteggiamento abbastanza, anzi non abbastanza, direi scandaloso. Ovviamente magistratura sta facendo le verifiche, sta facendo le indagini, però insomma i toni che sono stati usati sia nei confronti del segretario Bersani sia nei confronti complessivamente del partito sono toni che ovviamente avranno anche, credo, delle ricadute dal punto di vista giudiziario, insomma, sono stati veramente non, diciamo, corretti. Ecco, volete per esempio sporgere querela? Ma non lo so, io ricordo, insomma, se ne sta occupando il tesoriere, perché ricordo che durante la campagna elettorale effettivamente, insomma, si sono usati toni non, diciamo, degni di un paese civile. Capovolgo la domanda, per lei sarebbe giusto sporgere querela? Lo verificheranno le autorità giudiziarie, però, ripeto, sono state fatte delle allusioni, sono state fatte, diciamo, delle affermazioni pesantissime, tra l'altro una inchiesta molto delicata che ha avuto anche qualche giorno fa, diciamo, una tragedia umana, quindi insomma direi che prima di fare affermazioni di questo tipo bisogna stare molto molto attenti, e credo sia nell'interesse di tutti che su quella vicenda venga fatta la massima chiarezza, insomma noi lavoreremo per questo. Riguardo invece a questi paradisi fiscali, a queste 13 società intestate come amministratore a Walter Vezzoli, quello scrive l'Espresso, che è l'autista poi cocognato di Grillo, lei che cosa chiede? Che facciano vedere i conti? Ma che ci sia chiarezza, tra l'altro insomma è di ieri una risposta che Grillo ha dato, che è inesatta, nel senso che Grillo dice che la famosa società anonima corrisponderebbe all'SPA italiana. In realtà, dalle verifiche che sono state fatte, non è così. La società anonima corrisponde sostanzialmente a un modello di società che si usa in quei paesi dove possono esserci anche dei soci che non vengono dichiarati. Quindi, voglio dire, qui non si sta affermando nulla, diciamo, nei confronti di Grillo, se non la necessità che venga fatta chiarezza, perché effettivamente il, diciamo, titolare di queste società ha un rapporto con Grillo, un rapporto in modo particolare di lavoro, insomma, no? essendo il suo autista. Quindi nulla di più di quello che ho detto, che ci sia chiarezza, che venga fatta chiarezza, credo sia nell'interesse di tutti. Senta, a proposito, ha visto che Berlusconi sta male, ha chiesto il legittimo impedimento, il PDL sta reagendo sia per il processo Ruby sia per il processo BNL Unipol, porteremo la piazza contro la magistratura politicizzata. Intanto Prodi è stato sentito a Napoli per la compravendita dei voti di De Gregorio. Che impressione ha avuto? Ma insomma, io direi che uno dei motivi per cui noi abbiamo assunto la decisione su proposta di Bersani della impossibilità sostanzialmente di fare un governo con il PDL è legata anche a molto a questi atteggiamenti, insomma, cioè ne credo che in questo momento, anzi mai, ma in modo particolare in questo momento, non sia assolutamente pensabile andare in piazza a fare delle manifestazioni contro la magistratura. Penso che la vicenda ora andrà accertata, insomma, siamo in una fase ancora iniziale. Per quanto riguarda l'eventuale, tra virgolette, compravendita dei parlamentari, sia un fatto estremamente grave, anche perché ricordo che su quella vicenda, se fosse confermata, c'è stata la crisi sostanzialmente di governo e si è tornati a votare. Cioè, quindi, come dire, mi pare francamente un atteggiamento che non sia esattamente un atteggiamento di rispetto per quanto riguarda la Costituzione, per quanto riguarda lo Stato, per quanto riguarda gli organi democratici. Quindi insomma, la valutazione è una valutazione di attendere l'esito finale e poi fare tutte le considerazioni. Però direi che ormai ce ne sono parecchie, insomma, di situazioni di questo tipo che stanno in capo a Berlusconi, quindi insomma, ripeto, è uno dei motivi anche di difficoltà politica con il dialogo con la destra, insomma, italiana. Lei è stato presidente della provincia, no? Di Venezia, e uno dei cardini, dei tagli, dei costi della politica è proprio il taglio delle province, che oramai sono enti inutili o almeno vengono decretati come enti inutili. Lei come vede questa cosa? Ma noi, negli 8 punti che sono stati presentati da Bersani alla direzione, in uno di questi, per quanto riguarda anche costi della politica, l'ottimizzazione, diciamo, delle strutture sia periferiche che centrali, c'è anche la previsione della eliminazione delle province. Prossima settimana si insedia il Parlamento, poi il 19 il Capo dello Stato inizia le consultazioni. Se doveste voi fare, per esempio, un accordo con Monti, vi mancherebbero 15 senatori. Che farete? Cercherete di coinvolgere, non con metodi assolutamente illegali, ma di spiegare ad uno, a qualche grillino, che magari è meglio votare la fiducia oppure magari non entrare a votare, così almeno si abbassa il quorum? Insomma, che farete? Ma insomma, noi andiamo, se avremo, adesso, ovviamente ci sono i passaggi costituzionali, però noi sentiamo l'onore, insomma, e l'onere di andare in Parlamento con Bersani a presentare le nostre proposte a viso aperto. Noi diciamo che in questo momento non è possibile nessun governo se non un governo della responsabilità e del cambiamento, e quindi è chiaro che ci rivolgiamo a tutto il Parlamento, a tutti i deputati, a tutti i senatori, perché il nostro programma possa essere valutato, discusso e speriamo anche votato. Quindi non ci sarà un lavoro, diciamo, su singoli deputati o su singoli senatori, ma ci sarà un impianto politico per il bene dell'Italia. Allora ringraziamo Davide Zoggia, neoparlamentare del PD, la ringraziamo. Allora ci rivedremo in Parlamento. Grazie. Grazie, e noi vi diamo appuntamento come al solito a sabato prossimo.